Capitolo 126esimo. La quarta fatica. Il cinghiale rimanzio. La quarta fatica imposta a Eracle fu di catturare vivo il cinghiale Erimanzio, una feroce, enorme belva che infestava le pendici del monte Erimanto, coperte da selve di cipressi e le boscaglie del monte Lampia, devastando la campagna nei dintorni di Psofide. Il monte Erimanto prende il suo nome dal figlio di Apollo, che Afrodite accecò perché l'aveva vista bagnarsi. Apollo, per vendicarsi, si trasformò in cinghiale e uccise Adone, l'amante della dea. Il monte è tuttavia sacro ad Artemide. Eracle, passando da Foloe per recarsi sull'Erimanto, dove uccise un certo Sauro, efferato bandito, fu ospitato dal centauro Folo, figlio di Sileno e di una ninfa dei boschi. Folo offrì a Eracle carni arrostite, ma quanto a lui mangiò soltanto carne cruda e non osò aprire la giara di vino che apparteneva a tutti i centauri, finché Eracle non gli ricordò che, 4 generazioni prima, Dioniso aveva lasciato la giara nella grotta appunto perché fosse aperta in quella occasione. Il forte profumo del vino fece perdere la ragione ai centauri. Armati di grossi massi, abeti sradicati, torce e trincetti, si precipitarono verso la grotta di Folo. Mentre Folo, terrorizzato, cercava scampo a Eracle, audacemente respinse Ancio e Angrio, i primi assalitori, con un lancio di carboni infuocati. Nefele, la tempestosa nonna dei centauri, fece allora cadere dal cielo una violenta pioggia che allentò la corda dell'arco di Eracle e rese scivoloso il terreno. Tuttavia l'eroe si dimostrò all'altezza delle sue imprese precedenti, uccise parecchi centauri, tra i quali Oreo e Ileo. Gli altri raggiunsero Malea, dove si rifugiarono presso Chirone, loro re, che era stato scacciato dal monte Pelio dai Lapiti. Una freccia scoccata dall'arco di Eracle trapassò il braccio di Elato e si conficcò vibrando nel ginocchio di Chirone. Eracle, angosciato, si accovacciò accanto al vecchio amico ed estrasse la freccia, mentre Chirone stesso gli porgeva i farmaci per medicare la ferita. Ma a nulla valsero contro il veleno dell'idra, e Chirone si ritirò ululando per il dolore sul fondo della grotta. Tuttavia non poteva aspirare, perché era immortale. Prometeo in seguito propose che egli rinunciasse a tale immortalità per por fine alle sue sofferenze. Zeus accettò tale richiesta. Ma altri dicono che Chirone decise di morire non per il dolore della ferita, ma perché era ormai stanco della sua lunghissima vita. I centauri allora fuggirono in varie direzioni, alcuni a Foloe con Eurizione, alcuni con Nesso fino al fiume Eveno, altri in Sicilia, dove le sirene li sterminarono. Posidone accolse i superstiti a Eleusi e li nascose su una montagna. Tra i centauri che in seguito a Eracle uccise ci fu Omado l'Arcadico, che aveva tentato di violentare Alcione, sorella di Euristeo. Vendicando così nobilmente un oltraggio fatto a un nemico, Eracle si guadagnò fama in peritura. Folo, frattanto, mentre dava sepoltura ai suoi morti compagni, estrasse da un cadavere una delle frecce di Eracle e la esaminò. Come mai, si chiese, un centauro così robusto può essere perito per una semplice scalfittura? Ma ecco che la freccia gli sfugge dalle mani e, forandogli un piede, lo uccide all'istante. Eracle allora desistette dall'inseguire il cinghiale e ritornò a Foloe, dove seppellì Folo con straordinari onori ai piedi del monte che prese il suo nome. Fu in quella circostanza che il fiume Anigra acquistò il disgustoso puzzo che ancora oggi emana per tutto il suo corso, dalla sorgente sul monte Lapito sino alla foce, perché il centauro chiamato Pilenore, che Eracle aveva colpito con una freccia, si lavò la ferita nelle sue acque. Alcuni tuttavia sostengono che Melampo diede origine a quel puzzo molti anni dopo, quando gettò nella Nigro i sozzi oggetti che erano stati usati per purificare le figlie di Preto. Sepolto Folo, Eracle riprese la caccia inseguendo il cinghiale lungo le rive dell'Erimanto. Catturare l'animale vivo era impresa di grande difficoltà, ma Eracle lo stanò dal folto di un bosco lanciando alte grida, lo spinse in una forra dove la neve era alta e gli balzò sulla schiena. Legatolo con catene, se lo caricò sulle spalle e partì alla volta di Micene. Ma quando seppe che gli argonauti stavano radunandosi per iniziare il viaggio verso la Colchide, abbandonò il cinghiale ai margini della piazza del mercato e, invece di attendere nuovi ordini da Euristeo, che se ne stava nascosto nella sua urna di bronzo, partì con Ilo per unirsi alla spedizione. Non si sa chi finì il cinghiale incatenato, ma le sue zanne sono conservate nel tempio di Apollo a Cuma. Secondo un'altra leggenda, Chirone fu accidentalmente ferito da una freccia mentre stava conversando con Eracle sul monte Pelio, in compagnia di Folo e del giovane Achille. A 9 giorni dalla sua morte, Zeus pose l'immagine di Chirone nella volta celeste come costellazione del Centauro. Altri ancora sostengono che il centauro della costellazione è Folo, cui Zeus concesse questo onore perché eccelleva tra tutti nell'arte di trarre profezie dall'esame delle viscere. L'arciere dello zodiaco è pure un centauro, un certo Croto, che visse sul monte Elicona e fu il prediletto delle sue sorellastre, le Muse. I cinghiali erano sacri alla luna per via delle loro zanne ricurve, e pare che il successore del re sacro che uccideva e devirava il suo gemello si travestisse da cinghiale in quella circostanza. La forra colma di neve nella quale Eracle sopraffece il cinghiale indica che questa fatica fu compiuta in inverno. Qui Eracle si identifica con Oro Fanciullo, che vendica la morte di suo padre Osiride sullo zio Set, il quale appare sotto spoglie di cinghiale. Soltanto in pieno inverno la carne di cinghiale diveniva tabù per gli egiziani. La cerimonia natalizia della testa di cinghiale ha la sua origine nel trionfo del nuovo re sacro sul suo rivale. Adone viene ucciso per vendicare la morte di Erimanzio, il successore dell'anno precedente, il cui nome, colui che indovina mediante sorti, fa pensare che fosse stato scelto dalla maggioranza per uccidere il re sacro. Poiché il monte Erimanto era sacro ad Artemide e non ad Afrodite, Artemide fu probabilmente la dea che vi si bagnò e il re sacro, non il suo successore, deve essere stato colui che la sorprese. È probabile che il combattimento di Eracle con i centauri, come pure l'analoga lotta che si svolse alle nozze di Pirito, rappresentasse in origine il combattimento rituale tra il re appena consacrato e i suoi oppositori travestiti da animali. Armi tradizionali del re erano le frecce, e per affermare la sua sovranità egli ne scagliava una verso ciascun punto cardinale e la quinta dritta sopra il suo capo. In questo mito si ricordano forse anche le guerre di frontiera tra gli Elleni e i montanari pre-ellenici della Grecia settentrionale. Frecce avvelenate, scagliate di proposito oppure casualmente cadute, provocarono la morte non soltanto di Folo e di Chirone, ma anche di Achille, il pupillo di Chirone. Erano tutti re sacri della Magnesia e le loro anime furono dunque accolte dalle sirene. La presenza dei centauri a Amalea è giustificata dalla leggenda locale che fa nascere Amalea Sileno, padre di Folo. I centauri erano rappresentati come mezze capre più spesso che come mezzi cavalli. La loro presenza a Eleusi, dove Posidone li nascose su una montagna, ci fa supporre che quando un iniziato ai misteri celebrava le sue nozze con la sacerdotessa, dei danzatori montati su cavalli di legno prendessero parte alla cerimonia.